Storie italiane. Il brutto anatroccolo. Era un bel pomeriggio d'estate. Mamma anatra trovò un bel posto sotto un albero vicino ad uno stagno per deporre le uova. Ne fece 5. Improvvisamente notò che una delle uova era diversa dalle altre. Era un po' preoccupata. Aspettò che si schiudessero. Una bella mattina, alla fine, una dopo l'altra, le uova si ruppero. Pip pip, dicevano. Tutte le uova si schiusero e gli anatroccoli spinsero fuori le loro teste in questo grande mondo. Tutte si ruppero tranne una. Oh, i miei piccoli! Che mamma fortunata che sono! Ma che cosa è successo al quinto uovo? L'anatra era preoccupata. Questo uovo ci mette troppo tempo. Si sedette sull'uovo e gli diede tutto il calore che poteva dargli. Questo sarà l'anatroccolo più bello di tutti, dato che l'uovo impiega così tanto tempo a schiudersi. Una bella mattina, quando l'uovo si ruppe, uscì un brutto anatroccolo di colore grigio. Questo anatroccolo era diverso dai suoi fratelli. Pip pip. Era molto grosso e piuttosto brutto. Pip pip. Nessuno degli altri miei anatroccoli è così. Questo è proprio brutto. Mamma anatra era sorpresa di vederlo così ed era molto triste. La mamma sperava che un giorno sarebbe diventato come i suoi fratelli. Ma i giorni passavano e l'anatroccolo rimaneva brutto. Tutti i suoi fratelli e le sue sorelle si prendevano gioco dell'anatroccolo e non avrebbero giocato con lui. L'anatroccolo era molto triste. Sei brutto! Guarda quella piccola, brutta cosa sulla terra! Sì, vai via! Sei così brutto! Non giocheremo con te, brutto mostro! Tutti lo prendevano in giro. Il brutto anatroccolo era davvero triste. Il brutto anatroccolo andò allo stagno e vide la sua immagine sull'acqua. Non piaccio a nessuno, sono così brutto. L'anatroccolo decise di lasciare la famiglia e di andare in un posto lontano nel bosco. L'anatroccolo vagava tutto solo in mezzo alla foresta. Presto arrivò l'inverno. C'era la neve tutt'intorno. L'anatroccolo era triste e tremava dal freddo. Non poteva trovare cibo da mangiare o un caldo posto in cui stare. Andò da una famiglia di anatre che lo scacciò. Sei un brutto tipo. Chi è questo amico così brutto? Andò a stare in un pollaio. Lì le galline lo pungevano con i loro becchi. Così scappò via. Incontrò un cane per la strada, che quando lo vide, scappò. Il brutto anatroccolo pensò tra sé. Sono così brutto che il cane non mi vuole nemmeno mangiare. Il brutto anatroccolo, tristemente, tornò di nuovo a vagare per il bosco. Lì incontrò un contadino, che lo portò a casa dalla moglie e dai figli. Ma anche qui ebbe dei problemi col gatto di casa. Così lasciò la casa del contadino. Presto arrivò la primavera. Tutto era di nuovo fresco e verde. Cammina, cammina, vide un fiume. Era così felice di rivedere l'acqua. Andò vicino al fiume, dove vide una bellissima femmina di cigno che nuotava. Si innamorò di lei. L'anatroccolo si vergognava di sé e abbassò la testa. Quando la rialzò, vide la sua immagine nell'acqua e rimase stupito. Non era più brutto. Si era trasformato in un bel giovane cigno. Quindi capì perché era così diverso dai suoi fratelli. Perché era un cigno. E loro erano anatroccoli. Sposò la bellissima femmina di cigno di cui si era innamorato e vissero per sempre felici e contenti.